Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Beh, insomma, oggi, questa domenica, cercheremo di far funzionare la mente ancora di più. Le 10:08 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Faremo attivare la nostra parte del cervello dedicata alla creatività. Cioè, cerchiamo di capire come funziona questo meccanismo, come possiamo fare in modo di svilupparlo, se ce l'abbiamo per forza, se invece è lì che dorme assopito come molti la domenica mattina. Cerchiamo di far funzionare quella parte del cervello che già da bambini ci dicono di non far funzionare mai, perché ti dicono non usare la fantasia, devi essere più pratico, devi fare le cose in un certo modo, e tu mano a mano quella parte lì, quella appunto più creativa, la dimentichi. Oggi invece non vogliamo dimenticare carcera per niente e cercheremo di farla funzionare. Vedremo anche come ha funzionato e bene su tanti cervelli di giovani e meno giovani che hanno pensato a iniziative molto molto interessanti. E poi vorrei capire anche le vostre, se siete dei creativi, vi reputate tali, se avete qualche curiosità in merito, se avete magari delle idee che volete sviluppare in qualche modo e c'è qualcuno che potrebbe anche darvi una mano in questo senso. Di questo si parla nel riposo del guerriero di oggi e insieme anche alle nostre rubriche, quella con la nostra glottologa, quella con i giochi videogiochi, ma anche con la possibilità di farvi avere i biglietti per la mostra di Manet Ritorno a Venezia, appunto a Palazzo Ducale. Dovete associare una canzone che vi farò ascoltare al titolo di un'opera di Manet e la canzone di oggi è questa. Questa è una traccia molto famosa di Freddie Mercury, cantata con Montserrat Caballé, e dovrebbe ricordarvi un evento molto importante, un evento mondiale e a questo punto anche il titolo di un'opera di Manet. Non dico nient'altro, posso solo darvi il numero per prenotarvi e partecipare più tardi. Si gioca intorno alle 11:45, il numero verde 800 24 00 24. Per introdurre l'argomento creatività ho scelto una canzone di un cantante giovane che vinse X Factor inglese nel 2007, ebbe un grande successo il primo anno, poi mano a mano, come succede spesso in queste cose, è stato un po' dimenticato, eppure io ho recuperato questa traccia che a me piace molto, si titola appunto Creative, ovvero creativo. Jackson, insomma, mi piace molto. Poi credo che la domenica un pezzo così vi abbia abbastanza svegliato, va bene anche sotto la doccia per prepararsi. E tra l'altro, siccome oggi appunto si parla di creatività, si parlerà anche di un modo per dare vita a un vostro progetto musicale. Quindi se avete un progetto musicale in testa, oggi vi spiegheremo anche come cercare di dare vita a questo progetto e farlo funzionare e cominciare a essere conosciuti. Il riposo del guerriero. Intanto cerchiamo di capire come funziona questo meccanismo. Dottor Francesco Aquilar, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Psicologo, psicoterapeuta cognitivo, l'abbiamo preso in prestito da Essere Benessere oggi per cercare di insomma, capire se ho detto delle castronerie all'inizio del programma oppure è vero. Cioè, la creatività risiede in una delle due parti del cervello, credo nell'emisfero destro. Certo, ma è collegata anche ad altre parti del cervello, cioè per esempio a quelle che riguardano la ricerca dell'innovazione, della novità. Tutti noi biologicamente siamo predeterminati a trovare, cercare e costruire delle novità per risolvere i problemi nuovi ai quali andiamo incontro. Anche se la creatività di per sé è la capacità di trovare soluzioni nuove e impreviste ai problemi, di trovare connessioni efficaci tra argomenti diversi con un risultato innovativo, soddisfacente, condivisibile e generalizzabile. Ecco, che cos'è che normalmente blocca questo meccanismo? Magari il fatto, non so, l'insicurezza è uno degli elementi che possono bloccare la creatività. Magari ci sentiamo stupidi perché associamo cose tra loro non associabili. Allora ci sentiamo un po' diversi dagli altri e ci reputiamo stupidi e quindi blocchiamo quella parte creativa. Il problema della creatività è che esiste anche la possibilità di fare una verifica. Tutti possiamo avere delle idee, ma poi c'è qualcun altro che viene e va a verificarle. Sì. La paura di un giudizio negativo su questa possibile verifica della nostra creatività può bloccare alcune persone, e infatti è il motivo per il quale, per esempio, alcuni artisti hanno avuto grande successo dopo la loro morte, perché fino a quel momento nascondevano i prodotti della loro creatività. Quindi al primo posto è per paura del giudizio e della verifica, ma naturalmente è indispensabile avere verifica di quello che viene creato, perché c'è bisogno di una condivisibilità della scoperta o dell'ideazione. Naturalmente è diverso se parliamo di creatività scientifica o di creatività artistica, che sono le due facce dello stesso processo. Ecco, adesso poi magari le divideremo e cercheremo di capire. A proposito di creatività artistica, io al telefono ho Giovanni Gulino, che saluto. Giovanni, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, Giovanni è il fondatore di Music Razer, che è una sorta di, chiamiamolo incubatore per giovani artisti e band. Come funziona? Sì, incubatore forse non è la parola più esatta, anche se possiamo fungere da tale. È una piattaforma di crowdfunding, sì. Cioè praticamente un posto... Ricerca fondi, ecco, per capirci, no? Sì, è un fundraising online. Gli artisti, la nostra è una piattaforma interamente focalizzata sul settore musicale, quindi accettiamo solo progetti di carattere musicale, quindi possono essere discografici piuttosto che promozionali. Faccio un esempio così magari si capisce meglio. Se per esempio io sono un artista e voglio fare un disco, mi servono 5.000 euro, posso caricare il mio progetto su Music Razer e dopodiché fare un video di presentazione e scrivere, diciamo, quali sono le ricompense per coloro che vorranno finanziare il mio progetto, e quindi ottenere finanziamenti dalla rete. Questo fa sì che nel giro di un mese e mezzo, si possano raggiungere, diciamo, degli obiettivi economici che consentano agli artisti appunto di realizzare quello che è il loro step, il loro prossimo step di carriera, che può essere appunto un disco, un videoclip, un tour promozionale e quant'altro. Ecco, nel momento in cui io devo comunque proporre qualche cosa, non ho quei famosi, inventiamo, 5.000 euro che mi servirebbero per proporlo. Allora, esatto. Che cos'è che è sufficiente comunicare, inviare al sito perché la gente mi possa conoscere? Non so, un provino, un demo, basta una descrizione. Guarda, sul sito praticamente c'è un'area che c'è scritto invia il tuo progetto, quindi c'è un piccolo form da compilare, bisogna semplicemente descrivere brevemente il proprio progetto. Ad esempio, voglio fare il mio nuovo disco a giugno dell'anno prossimo, sì. Scrivere la cifra che ti serve per realizzare il tuo progetto, mandarci dei riferimenti web, telefonici, eccetera. Dopodiché abbiamo un gruppo di persone che vanno a verificare i dati che sono stati inseriti, vanno a guardare appunto le pagine social di queste persone, capiscono se dietro c'è qualcosa di concreto oppure è una fesseria, e dopodiché si accoglie il progetto o meno. Non siamo una casa discografica, quindi non andiamo a valutare l'artista nel merito della sua proposta meramente artistica, ma guardiamo più che altro la sua capacità di comunicare e dialogare appunto con i propri fan. Insomma, se c'è ciccia, poi non entrate nel merito se canta bene, canta male o che cosa, no, perché no, magari comunque... Quello minimo sì, cioè cerchiamo di fare una selezione anche dal punto di vista qualitativo, non di genere musicale, sì, per noi certo, va bene tutto, dal jazz al metal. Beh, chiaro, perché poi avrà un suo pubblico, per cui di conseguenza quella è la cosa più importante. E ti chiedo, da quanto siete partiti, Giovanni, da quanto tempo? Noi siamo partiti da quasi 7 mesi, dal 22 di ottobre del 2012. E qualcuno, ecco esatto, qualcuno è già stato finanziato, qualcosa è già partito. Sì, abbiamo finanziato 98 progetti per 270.000 euro appunto di fondi distribuiti. Ecco, quindi se avete una band, se siete un artista anche singoli, una casa discografica piccola che vuole crescere, se avete un progetto in questo senso, c'è una possibilità concreta di proporvi e farvi dare dei soldi, raccoglierli, che poi dovrete distribuire, perché poi a seconda di come si partecipa economicamente perché si può anche partecipare senza poi avere indietro niente, no? Dipende da quanto si dà, poi ognuno può, giusto, scegliere il meccanismo. Diciamo che... il 99% dei versamenti hanno a che fare con una contropartita, cioè chi crea i progetti crea anche le ricompense per i finanziamenti. Per chi ha finanziato, ecco. Esatto. Penso che si possa dare da un minimo, da un massimo non c'è, ma un minimo sì, ma anche un euro dico troppo poco. Ogni artista sceglie la sua, praticamente la sua gamma di versamenti che può liberamente indicare da un euro a 10 euro, a 15 euro, a 100 euro, a 1000 euro, quello che vuole. Di solito è così, si va da un range dai 10 ai 100 euro mediamente. Bene, allora se avete questa voglia o di dare manforte ai giovani artisti, anche non giovani, oppure se volete essere un artista e cercare fondi, musicraiser.com è il sito della rivista. Bravo Giovanni. Anni, credo che avrete molto successo, già l'avete, ma insomma diventerete ancora più grandi. Buona domenica, ciao. Ce l'auguriamo, grazie. Buona domenica a tutti. Sarà così, perché la musica, insomma, tanti sono i ragazzi che vogliono intraprendere questa attività. Appunto, dottor Francesco Aquilar, lei ho introdotto questo ospite proprio perché aveva fatto la differenza fra creatività artistica e creatività scientifica, no? Certo, e questo esempio del nostro ospite è appunto un esempio della ricorsività della creatività, perché si tratta di una creatività applicata all'economia per favorire la creatività musicale. Ed è il lavoro continuo tra creatività e innovazione che caratterizza la specie umana e che caratterizza anche gli studiosi della creatività, che prevalentemente sono psicologi o economisti. E quindi in questo senso è un progetto innovativo e interessantissimo, che fa nascere poi ulteriori idee, per questo è ricorsiva la creatività. Più sono creativo, più mi vengono buone idee. Ecco, tante volte le persone dicono, ma è venuto in mente anche a me, ma perché lui l'ha fatto e io no? Perché qualsiasi processo mentale ha bisogno di una parte comportamentale, quindi realizzativa. E alcune persone hanno invece un blocco nel momento in cui debbono realizzare quello che hanno pensato, o per il timore dell'esposizione e del giudizio e della verifica, come dicevamo prima, oppure perché sono indisciplinati dal punto di vista interiore, cioè non desiderano fare lo sforzo di effettuare i passaggi necessari per portare avanti l'idea che hanno avuto. E qui si tratta, diciamo, di un canale depressivo che ostacola l'espressione della creatività e che può esserci nella personalità di ognuno di noi in alcuni momenti della vita. Ecco, quindi bisogna, ecco, perché poi c'è proprio anche quello, è un blocco che poi alla fine non permette di sviluppare e di portare avanti magari appunto un'idea che invece può funzionare. Massimiliano Brigonzi, buona domenica. Buona domenica Stefano. Allora, Massimiliano è uno dei tre ideatori di un nuovo social network tutto italiano che dovrebbe partire l'anno prossimo e che si chiama Hint Club, ovvero il club dei consigli. Va bene la traduzione, ti piace? Perfetta. Nel frattempo sono qua anche con i miei colleghi, i miei soci. Buongiorno. Ecco, Andrea, Andrea Linuzzo e Matteo Zino, dico bene? Non mi sentono più, pronto? No, dicevo, ecco, Andrea Linuzzo e Matteo Zino sono gli altri due soci. Voi siete amici da un po' di anni? Sì, da sempre, da tutta la vita, da tutta la vita. Siete nati già amici, in poche parole, siete trovati in culla. Ecco. Ecco, a un certo punto è scattato, allora io chiedo, è vero che siete in viva voce sicuramente, ma vi chiedo di non esserlo perché sennò per noi è un problema tecnico, poi non riusciamo a parlarci, perché va bene, se non sto a spiegare tecnicamente, ma è così, quindi ti prego, grazie Massimiliano, scusami. Cosa è successo? A un certo punto vi siete messi insieme, cioè già come amici, e avete avuto un'idea, cioè la creatività ha funzionato insieme, oppure uno di voi è venuta un'idea e poi gli altri l'hanno appoggiata, come ha funzionato? L'idea nasce come le idee che nascono in un gruppo, possono partire anche dal bar, quindi partiamo dal bar, ma soprattutto nascono da un problema che abbiamo percepito tutti insieme, ossia il vivere social network e sentirci un po' schiacciati dal fatto di non riuscire a condividere qualcosa perché avevamo paura che qualcuno potesse non essere d'accordo con noi, e soprattutto il problema di scoprire qualcosa di nuovo che veramente fosse nuovo, innovativo, particolare, ma che soprattutto connettesse le persone. Ecco, e tu dici c'è Facebook, c'è Twitter, anzi abbiamo anche la nostra pagina di Facebook, Il Riposo del Guerriero, lo dico perché se volete intanto commentare le cose potete farlo direttamente, però dici ma non ci basta, ci vuole qualcos'altro. Sì, ci vuole qualcos'altro, perché i gruppi di Facebook non sono studiati esattamente per scambiarsi consigli. La nostra idea è verticalissima. Le persone su InClub si danno un consiglio reciproco ed è qualcosa che sviluppa un vero senso di compassione umana. Ecco, però è vero che ci sono i forum che un po' sono questa cosa, no? Infatti, ecco. Esatto. Noi forum li reinventiamo con InClub, perché li rendiamo social, li rendiamo innovativi e li rendiamo più sicuri, perché se su un forum si può semplicemente scrivere, quindi ci si può anche insultare. No, soprattutto sui forum, allora, gli esperti, tra virgolette, dei forum che rispondono, io non rispondo più per quello, mi sono stufato. allora, no, perché uno dice, ho questo problema, non so, non mi funziona questa cosa, e la risposta dei forum è, beh, cambiala, cioè, perché cioè, veramente c'è, ci sono molte persone che rispondono tanto per rispondere senza nessuna competenza. Spero che invece voi cerchiate di indirizzare alla competenza. Però come si fa a capire che noi come indirizziamo la competenza? Con un sistema di rating interno dei consigli. Più una persona fa dei consigli che sono pertinenti, sì. Ma non solo pertinenti, ma che diano davvero. Noi lo rappresentiamo con una lampadina, che, come dire, mi è accesa una lampadina nella testa. Se è accesa una lampadina nella testa, allora vuol dire che mi hai dato qualcosa di veramente utile. E allora questo crea una reputation all'interno del nostro social. Chiaro, e quindi chi ha una reputazione migliore è più credibile rispetto ad altri che invece di lampadine accese non ne hanno per niente. Esattamente. Allora, esattamente. Voi come avete trovato i soldi per finanziarvi? I soldi per finanziarci? Noi siamo, allora, una vera startup inizia mangiando ramen, quindi con poco o niente. Noi abbiamo fatto un processo di incubazione nell'incubatore di impresa di Novara N3. Sì. Che praticamente ci aiuta a reperire i primi fondi tramite fondi regionali e fondo perduto per la ricerca. Infatti noi siamo tutti universitari, quindi veniamo dal processo della ricerca. E poi a partire da questi si può dialogare con vari interlocutori italiani e speriamo anche ad esteri, con il viaggio in Silicon Valley che i miei due colleghi faranno quest'estate, io ho fatto nel 2010, e quindi poi si procede, ma almeno all'inizio, quella piccola prima fase di bootstrapping, riusciamo un po' a gestirci almeno per quest'anno, grazie soprattutto all'incubatore. Ecco, bene, allora, quindi una partenza c'è, le risorse cominciate ad averle, poi ci sono quelle, le risorse mentali le avete, per cui quelle sono molto importanti, da lì si comincia, e poi quindi InClub dovrebbe prendere vita, e non so se c'è un mese, diciamo nel 2014, ma l'ideale sarebbe gennaio, febbraio, marzo, non so. Gennaio, quindi con l'inizio dell'anno. Stando al piano. Va bene, allora facciamo così, una promessa, nel caso appunto doveste partire, appena partite ne parleremo e vedremo un po' come funzionerà il vostro nuovo social network. Io mi auguro, ecco, la fortuna di un altro giovane molto famoso che ha un'icona blu che ben conoscete e chissà com'è il vostro logo, l'avete già pensato? Sì, il logo esiste già, lo potete trovare, potete vedere queste prime informazioni sulla nostra landing page a www.hintclub.co, dove ci si può già preiscrivere a quello che sarà il nostro social media per un accesso iniziale ristretto, e comunque il nostro simbolo che abbiamo realizzato sempre in collaborazione con l'incubatore sono tre piccolini lanciati verso l'alto che portano in mano quello che è un contenuto, rappresentato un contenuto, una piccola palla, una piccola sfera con delle onde. Questo è come rappresentare, io porto qualcosa al mondo e lo condivido, lo do e sono felice di farlo e lo faccio in gruppo. Questo è quello che rappresenta il nostro logo. Grazie Massimiliano, grazie anche ai tuoi soci Andrea e Matteo, ci sentiremo presto, buona domenica, ciao. Ecco, poi sentiremo il dottor Francesco Aquilar per capire il meccanismo di creatività in gruppo, come possa funzionare. Il riposo del guerriero. Dottor Francesco Aquilar, diciamo, la creatività invece in gruppo, quello che gli americani chiamano brainstorming, no? Il buttar fuori idee a caso fino a trovare magari quella giusta. Ma nella proposta che ci faceva il nostro ospite, sì, si vedevano le due caratteristiche più utili della creatività in gruppo, che però è la creatività risolutiva, non quella espressiva. Che sono l'insight, cioè la persona che all'improvviso riesce a vedere dentro di sé, dentro il problema, quale può essere la soluzione, e invece la sequenza enorme di prove ed errori che possono poi portare a risolvere un problema. Nella creatività di gruppo noi abbiamo la possibilità di venire a conoscenza di entrambe le modalità. Nell'esempio che ci faceva del modo per risolvere il problema attraverso un network comune, sì, di fronte ad un problema ci può essere il singolo che ne vede alcune caratteristiche che altri non hanno visto, e ci può essere la sequenza di quelli che hanno fatto 2000 prove ed errori per arrivare ad una soluzione. Quindi in questo caso noi vediamo le due modalità della creatività risolutiva, la sospensione improvvisa oppure il risultato di tante persone che hanno fatto tanti piccoli tentativi, quindi va benissimo. Ecco, è vero che non è che uno quando ci cimenta, no, in proposte, idee, quando si chiacchiera per capire, non è che uno fa tutti questi ragionamenti, no? Cioè, voi li studiate ovviamente, ma uno li fa e basta, perché sono meccanismi automatici, no? Che dovremmo avere in modo assolutamente autonomo. C'è nel nostro comportamento quotidiano, nella nostra vita quotidiana, un modo di fare, di atteggiarsi sia verso noi stessi sia verso gli altri che possa dare la creatività, la possibilità di svilupparsi? Al primo posto dobbiamo fare il possibile per aumentare nella nostra mente la disponibilità al cambiamento, all'apertura al cambiamento. Perché se noi siamo disposti a metterci nella mente dell'altro e a osservare con attenzione quello che l'altro ci dice, noi possiamo più facilmente collaborare al processo creativo. Quindi da questo punto di vista si connette il tema della creatività al tema della disponibilità all'ascolto e al tema della comunicazione. Nel momento in cui la comunicazione funziona, anche il processo di creatività può essere condiviso. E da questo punto di vista serve un allenamento. Non solo un allenamento alla creatività, ma anche un allenamento ad osservare la realtà mettendoci nei panni dell'altro, perché così riusciamo a vederne più aspetti. Ecco, quindi una buona cosa da fare è lasciar parlare l'altro e fare in modo che esprima anche delle castronerie, tra virgolette, ma che servono a sviluppare il lavoro creativo, senza invece tarparlo. Magari tante volte i genitori dicono: ma cosa stai dicendo? Una cretinata, no? E quindi in questo senso si tarpa il processo creativo. Certo, dobbiamo ascoltarlo con attenzione, anche se, come diceva Oscar Wilde, non occorre bere tutta la botte per assaggiare un buon vino. Ecco, quindi basta poco e si capisce subito. Elenia Rotondo, buona domenica. Buona domenica Stefano, buona domenica a tutti. Allora, anche Elenia è terza classificata nel concorso Il Talento delle Idee dell'area nord-ovest nel 2012, ha avuto un'idea. E a un certo punto Elenia racconta dove ti sei trovata a voler qualcosa. Dice: non c'è questa cosa, adesso la faccio io. Sì, è nato questo progetto Clipit.it, che è un portale di vendita di arredamento online fatto solo da imprese artigiane, è nato dalla mia necessità. Sono una designer, avevo bisogno di poter quantificare, qualificare i miei prodotti, sapere il costo di produzione, come metterli in vendita, chi farli produrre. Quindi, dando a questa necessità, è nata poi l'idea di Clipit, una piattaforma di aggregazione di designer artigiani. Ecco, Clipit, Clipit.it, questo è il sito. Da quello che ho capito, è un sito dove una persona può trovare delle cose già pronte, no? Quindi vedere il designer, l'artigianato, da questo punto di vista, che cosa propone. Però può anche avere un'idea, cioè dice: io avrei bisogno di fare un mobile in questo modo. Chi è che me lo può fare? Punto di domanda, giusto? Funziona così? Perfetto, c'è un servizio che appunto si chiama Soluzione su Misura. Partiamo da un'idea diversa. A volte quando uno va sul web sa perfettamente già quello che vuole acquistare, sì, quindi entra all'interno di Clipit.it e inserisce tutte le sue esigenze, le sue richieste per il prodotto che vuole acquistare. Ad esempio, desidero un divano, so già come lo voglio, so già il colore, so già che voglio la penisola, entro e faccio la mia richiesta. Quindi in questo caso la richiesta viene inviata a tutti gli artigiani e gli artigiani possono fare le loro proposte. Ecco, e poi quindi una persona sceglie la proposta, anche il preventivo, che insomma più si avvicina a quello, sì, che aveva in mente, anche da un punto di vista economico. Come sta andando, Elenia, questo sito? È un percorso in crescita, è un po' come dico l'artigianato che si sta rivoluzionando, la rivoluzione artigiana sul web. Siamo partiti all'incirca un anno fa. Sì. Sono partita da sola, in un anno abbiamo creato il team, quindi li ho incontrati anche loro per strada e gli altri membri, e tra di loro, soprattutto tra gli artigiani, si è creata proprio un po' l'idea di impresa diffusa, quindi nei vari incontri che facciamo si aggregano, si scambiano materiale, scambiano informazioni, opinioni sul web. Quindi quindi vi conoscete anche personalmente, non soltanto in modo virtuale? Assolutamente, assolutamente. Non abbiamo tolto le dinamiche classiche da bottega, da showroom, quindi il contatto diretto sia tra noi che i nostri artigiani, sia tra gli artigiani che i consumatori è assolutamente fondamentale. Ecco Eleni, anche tu per poter partire è grazie dei fondi ricevuti da questa dall'essersi classificata terza a questo concorso oppure no, sei partita in un modo diverso? No, siamo autofinanziati tuttora. La cosa, ovviamente siamo alla ricerca, quindi ben venga, però la cosa che facciamo, diciamo, abbiamo avuto il supporto da parte di due incubatori di impresa, i 3P a Torino e Reso Entrepreneur a Piemonte, e avere il supporto degli incubatori vuol dire anche avere consulenze gratuite. Certo, è un aiuto per poter cominciare, quindi insomma è un modo per che diciamo anche gli ascoltatori che volessero e che avessero delle idee e volessero mettere in atto di appunto approfittare anche di queste possibilità se sì. Possono farlo. Grazie Regna Rotundo, voglio ricordare ancora il sito che è clipit.it, ancora complimenti. Grazie, ciao. Grazie a tutti voi, buona giornata. Allora, dottor Francesco Aquilar, e anche qui allora, mi viene da pensare una cosa, che la creatività chiaramente è messa in moto quando si ha un'esigenza, cioè quando siamo sotto stress, da questo punto di vista il nostro cervello comincia a cercare idee. Naturalmente, naturalmente, è quello che ci ha consentito di evolverci dall'età della pietra fino ad oggi. In questo caso noi avevamo un esempio di creatività applicata al trovare soluzioni tagliate su misura per ciascuno. L'altro aspetto interessante della creatività è che quando una soluzione è davvero creativa, non è soltanto generalizzabile, ma è anche utilizzabile da ciascun singolo nel suo modo. Se noi guardiamo un bel quadro, in ognuno di noi il bel quadro suscita delle emozioni, tutte interessanti però diverse per ciascuno. E in questo esempio ancora c'era il collegamento tra chiedere aiuto, offrire aiuto e cooperare, che sono delle motivazioni fondamentali della specie umana. Quindi in questo senso c'era una soluzione vantaggiosa per tutti, sia per chi chiede aiuto, sia che per chi offre aiuto, sia per chi collabora nell'offrire aiuto. E questo è soddisfacente anche sul piano biologico. Ecco, infatti è anche sul piano poi di Regna Rotundo, che sarà molto contenta di essere riuscita a mettere a frutto una propria idea. Adesso chiedo agli ascoltatori attenzione in questo senso, perché vi invitiamo anche a produrre creatività, a fare qualcosa che possa mettere in moto il vostro cervello, la vostra testa, la vostra parte creativa. Quindi prendete eventualmente un foglio, una penna per segnarvi le parole che adesso vi diciamo. C'è il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari al telefono. Professore, buona domenica. Buona domenica anche a lei Stefano, a tutti gli ascoltatori. Neuropsicologo, presidente di Asso Mensana, che come dice il nome è un'associazione per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità mentali, perché cercheremo, esistono degli esercizi, no, per tenere la creatività in moto. Esistono degli esercizi che possiamo fare in qualsiasi momento della giornata e che ci possono aiutare a sviluppare i collegamenti che ci sono tra le diverse aree e quindi di organizzare in modo unico e creativo diversi elementi. Possiamo per esempio lavorare per spiegare delle situazioni inusuali, no? Possiamo inventare una situazione tipo un cartello stradale al lato della strada, tutto accartocciato. Allora, quali possono essere le spiegazioni di questo cartello stradale? Allora, ecco, possiamo... voglio dire, scusi se interrompo, non sì. C'è chiaramente una verità, non c'è una risposta vera, vanno bene tutte le risposte possibili, giusto? Vanno bene tutte le risposte possibili, perché un processo creativo non ha limiti. Noi possiamo riorganizzare in mille modi diversi due elementi che non hanno relazioni tra di loro. Quindi posso dire che sono arrivati gli alieni di notte, hanno provato a mangiarlo e poi hanno sputato e quindi il cartello è accartocciato per quello. Perfettamente, così come può essere una scultura, può essere stato colpito da un fulmine, può essere stato l'obiettivo di un incidente, possono esserci tante spiegazioni e se noi ci mettessimo intorno a un tavolo ciascuno tirerebbe fuori delle spiegazioni diverse. Ecco, e chiaramente anche dalle spiegazioni è possibile capire dei tratti psicologici, non so chi usa di più la razionalità, chi usa di più la fantasia, o mi sbaglio? Sicuramente verrebbe fuori chi dice che un cartello è accartocciato perché ragionevolmente è stato oggetto di un incidente, per cui ci sono alcuni individui che fanno più fatica a trovare delle soluzioni alternative, creative, sì, alternative, certo. Ma questo se all'inizio può essere un limite, poi pian piano esercitandosi può diventare invece molto più ricco, per cui si possono trovare delle soluzioni anche in persone che tradizionalmente sono razionali. Il riposo del guerriero. Quindi invito gli ascoltatori a prendere penna e foglio, tra poco dovete scrivere semplicemente due parole e mettere in moto la vostra creatività, le frasi che dovete riuscire a contenere in un SMS o anche meglio in un tweet vanno poi inviate al 349-238-6666 oppure nella nostra pagina di Facebook o ancora quella di Twitter, perché poi cercheremo di pubblicare quelle più divertenti, quelle più creative. Io ho un po' introdotto, ma adesso poi il professor Giuseppe Alfredo Iannocchi vi spiegherà esattamente cosa andrete a fare. Professore. Sì. Stefano, si tratta di collegare due parole che apparentemente non hanno alcuna vicinanza semantica in una storia di senso compiuto. Questa storia deve essere anche un po' bizzarra, se vogliamo. Ad esempio, se io volessi mettere insieme le parole coda e stelle, potrei pensare che Andrea si era mascherato da gatto ed aveva una lunga coda di stoffa bianca e con questa coda andava in giro durante il periodo di carnevale lanciando stelle filanti. Ecco, in una situazione assolutamente, diciamo, strana, io ho messo insieme due parole che in un racconto di senso compiuto. Certo, anche esatto, perché il travestimento di coda del carnevale, la stella a questo punto diventa la stella filante, non più le stelle esatto. Che uno sarebbe abituato a pensare, ed ecco il senso compiuto. Sì, quindi anche dare un senso diverso ad una parola che noi classicamente intendiamo con un senso unico, ecco, quindi stella in questo caso diventa stella filante. Ecco, è una sorta di pensiero laterale alla fine, no? Bisogna far funzionare questo aspetto, credo, della creatività. Sì, osservando come se fosse, diciamo, un prisma, tanti aspetti diversi dello stesso concetto. Questo lo possiamo fare magari scrivendo su un foglio tutti i significati che possono avere parole che noi utilizziamo comunemente con un senso unico. Però, giusto per tornare a quello che era l'esercizio che stavamo proponendo sì. agli ascoltatori, io proporrei tre sfide interessanti, cosa ne dice? Va bene, allora vediamo le coppie che possiamo associare. Allora, le coppie potrebbero essere mettere insieme in una storia principe e medusa. Quindi scrivetevi principe e medusa e poi penserete alla storia più tardi. Poi. Poi un'altra potrebbe essere smeraldo e matita. Bene, smeraldo e matita sono le altre due parole. L'ultima è più difficile. Neve e pappagallo. Sì, allora perché io sono lento perché sto pensando alla storia che costruirei ovviamente. Allora le ripeto, le coppie, principe, medusa, smeraldo, matita, neve, pappagallo. Quindi inviate la vostra brevissima storia, deve stare in un SMS o in un tweet, al 349-238-6666 oppure sulla nostra pagina Twitter del Riposo del Guerriero o ancora su Facebook, perché poi le più divertenti saranno pubblicate sul nostro sito, sulla nostra pagina del Riposo del Guerriero, ma anche sul sito di Asso Mensana. Dico bene, professore? Bene, dedicheremo uno spazio anche alle storie più divertenti sul sito assomensana.it. Ecco, che vi invito ad andare a leggere perché è un modo sicuramente per potenziare le vostre abilità mentali, visto che vi occupate proprio di questo come associazione. Grazie professore, buona domenica. Grazie a lei e a tutti. Dottor Francesco Aquilar, uno pensa che questi esercizi non servano assolutamente a niente se non a passare del tempo, o invece servono? Servono sicuramente ad allenare la nostra mente a trovare diverse soluzioni ai problemi. Naturalmente, essendo in radio, non si poteva fare altro che un esercizio che fosse in qualche modo collegato all'intelligenza linguistica. Sì. Perché poi c'è l'altro problema della creatività collegata alle diverse forme di intelligenza. E siamo anche, come diceva il nostro ospite, in una creatività che non ha vincoli, quindi è particolarmente astratta. Mentre invece c'è anche tutto il resto della creatività quotidiana che purtroppo o per fortuna ha dei vincoli, nel senso che noi abbiamo un problema da risolvere oppure abbiamo un'emozione da esprimere, come nel caso della creatività artistica, e quindi noi possiamo utilizzare tutte e due le forme della creatività, quella senza vincoli come questa di questi esercizi, sì, e quella con i vincoli che invece è più frequente nella vita quotidiana. Ecco, allora facciamo un esempio di un esercizio che così possiamo proporre agli ascoltatori da fare, al di là poi di scriverci un messaggio, ma che possono fare nel corso della loro quotidianità e che invece presuppone dei vincoli. E per esempio un vincolo potrebbe essere, che coglie altri tipi di intelligenza, quello di fare un disegno nel quale esprimono come si sente adesso. Sì. In questo modo noi andiamo sulla illustrare, anche senza competenze tecniche specifiche, un'emozione di questo momento. Quindi come l'ascoltatore, come si sente mentre sente il riposo del guerriero? Che tipo di emozioni sono attivate? Quali idee gli vengono in mente? E qualcuno potrebbe fare per esempio un fumetto con l'idea del pensiero che gli è venuto in mente mentre sta steso sul divano ascoltando la trasmissione o sta in macchina per raggiungere una località che gli interessa raggiungere oggi. Un'altra possibilità è per esempio quella di modificare il testo di una canzone conosciuta scegliendo delle parole adatte al suo stato d'animo attuale. Il vincolo consiste nel calare la situazione della creatività nella singola storia di vita e fare in modo che questo aumenti le nostre capacità di espressione delle emozioni, che significano anche avere un maggior senso di soddisfazione di identità personale. Ecco, quindi sono esercizi che si possono fare, anche veramente che possono divertire, a me divertirebbero per esempio, ma che danno la possibilità di far funzionare questa parte dell'emisfero destro che facciamo funzionare un po' meno rispetto forse per abitudine e per quotidianità. E l'ultimo... se lo raccontiamo a qualcuno che ci interessa, possiamo anche esprimere meglio quello che abbiamo dentro e provare a comunicare in un modo più originale e piacevole per entrambi rispetto a quello che si fa di solito. Ecco, quindi l'obiettivo è concreto. Ecco, quindi serve, fateli. Dottor Francesco Aquila, la ringrazio, le auguro buona domenica, ringrazio per essere stato con noi e per aver arricchito con tanti fumetti, nel senso che sono le cose che lei ha raccontato e aggiunto ai nostri ospiti. E insomma, grazie per questa lezione sulla creatività che speriamo di poter usare tutti i giorni e migliorare di ora in ora. Grazie. Buona domenica. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Buona domenica. Il riposo del guerriero. Io vi devo fare complimenti, davvero. Stanno arrivando tantissime frasi che associano le parole, la coppia di parole che abbiamo dato per mettere in moto la vostra creatività. Ma mi pare che sia messa in moto già molto bene, sia molto calda, e questo mi fa piacere. Poi vi ricordo che le frasi più divertenti saranno pubblicate sul sito assomensana.it e allora, volevo leggere qualcuna, così per curiosità. Una delle coppie era, se non mi sbaglio, Neve e Pappagallo, sì, giusto, e avrebbe voluto uscire a giocare nella neve, ma era fermo in un letto d'ospedale, costretto per giunta a usare il pappagallo. Ecco, quindi questo è un esempio di come la parola pappagallo è usata in un altro modo, quindi non come animale. Piuttosto che all'antennista serve una chiave a pappagallo per smontare l'antenna, deve eliminare l'effetto neve. E così altri, ce ne sono veramente molti, tipo il film Il Piccolo Principe sarà distribuito in Italia da Medusa Film. E anche qui le parole erano principe e medusa. Medusa è stato usato non come la medusa appunto, ma come la marca, il nome della casa di distribuzione di film. Insomma, quindi siete stati molto molto bravi, i messaggi sono moltissimi, li pubblicheremo su Facebook sicuramente e poi appunto i migliori saranno pubblicati sul sito. Le 11:08 c'è Alessandra Tedesco invece da Torino in diretta dal Salone del Libro. Ciao Alessandra, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica a voi. Allora, la puntata è nata sulla creatività anche perché l'argomento proprio del Salone del Libro di Torino di quest'anno è dove osano le idee, lì si è usato molto. Sì, si è usato molto perché soprattutto in tempo di crisi la creatività è fondamentale, non solo per i narratori naturalmente che sono sempre creativi, insomma devono inventarsi trame e così via, ma qui al Salone del Libro di Torino si è parlato e si sta parlando anche di tanti altri temi, anche per esempio quello delle imprese. Per fare impresa in questo momento di crisi c'è bisogno di idee, di creatività, visto che ci sono pochi soldi, insomma le idee, quelle in teoria, non costano nulla. E stanno parlando di creatività anche molti scrittori, per presenti qui al Salone del Libro. Ospite in diretta con noi stamattina a Radio 24 c'è Donato Carrisi, il mago del thriller all'italiana. Lo ricorderete, il suo primo libro, Il Suggeritore, ebbe un successo strepitoso. Adesso è in libreria con un nuovo thriller, L'Ipotesi del Male, sempre pubblicato da Longanesi. Allora Donato, la domanda è d'obbligo: che cos'è per te la creatività? Ma per quanto mi riguarda, la creatività è la capacità di rendere credibili le storie reali che ci circondano e a cui non riusciamo a credere però. E devo dire che le storie che racconta Donato Carrisi non sono mica male, fanno venire anche un certo spavento. In quest'ultimo libro, per esempio, che è un thriller molto psicologico, si indaga proprio nella psicologia dei personaggi per capire dove esiste il confine fra bene e male. Ma del resto in questi giorni abbiamo sentito anche altri scrittori, anche altri artisti parlare del concetto di creatività. Per esempio Vinicio Capossela, che è qui al Salone del Libro di Torino, in veste di scrittore, perché ha appena pubblicato per Il Saggiatore il libro Testè, il libro dei conti in sospeso. Sostanzialmente è il racconto, il diario di un suo viaggio in Grecia durante il 2012, nell'epoca della crisi, un suo viaggio però soprattutto umano. E allora sentiamo il musicista Vinicio Capossela in veste di scrittore che ci parla della creatività. Ah, sicuramente avrà anche questo un'etimologia, creatività, non so, la creatività è quella miccia di divino che ci accende, nel senso che, ecco, nella religione degli antichi greci non erano gli dèi a essere umanizzati, erano gli uomini che erano divinizzati, voglio dire qualcosa. E cos'è che divinizza l'uomo? È quando alza lo sguardo al cielo, quindi la creatività cos'è? È l'affermazione della capacità di immaginare, di essere accesi da un'idea, ed è quello che più nobilmente probabilmente ci rende uomini. E uomo è una parola greca e si dice anthropos, e dal greco antico anthropos significa quello che guarda in alto, forse appunto per creare qualcosa o forse per interrogarsi sul creato, su una creazione più grande di lui. Altro scrittore che abbiamo sentito qui al Salone del Libro di Torino sul tema della creatività è Alessandro Perissinotto, con il romanzo Le colpe dei padri, pubblicato da PM, che è uno dei libri in gara per il premio Strega, molto probabile entrerà in cinquina, la cinquina che verrà decisa a metà giugno. E allora sentiamo che cos'è il processo creativo, la creatività, per Alessandro Perissinotto. Pensando alla creatività, io penso sempre a una creatività che nasce dall'osservazione, dall'ascolto. Per esempio, io dico, rendendomi antipatico, che uno scrittore è qualcuno che origlia, qualcuno che ascolta i discorsi degli altri al ristorante, qualcuno che quasi spia la gente sulla metropolitana, perché la creazione per me passa attraverso non l'ispirazione dall'alto, ma la raccolta dei segnali che vengono dalle persone che ci circondano. Insomma, questi scrittori vi hanno dato delle loro idee di creatività, e se non sono creativi loro, che inventano ogni giorno dei romanzi nuovi, chi può esserlo, Stefano? Infatti bisogna essere assolutamente. Alessandra, tu hai un romanzo nel cassetto che a causa della creatività è rimasto un po' lì? No, io l'ho già pubblicato il mio romanzo e non ne ho alcuna intenzione di avere altri romanzi nel cassetto. Ma di qua, appunto, di quelli pubblicati ne abbiamo anche parlato, ma io dico nuovi. La creatività è ferma, allora devi fare gli esercizi che ci ha dato il professore oggi per migliorarla. Sì, bisogna fare esercizi, ma guarda, la creatività si usa tutti i giorni, non c'è bisogno di scrivere un libro per essere creativi, per affrontare la vita bisogna essere creativi, quindi insomma più creatività di questa. Quello per forza. Ciao Alessandra, buon lavoro. Lì al Salone del Libro di Torino. Ciao, vi ricordo tutti, il programma Il Cacciatore di Libri ogni sabato alle 6.45 e alle 21.05. Arianna Vignati, buona domenica. Buongiorno a tutti. Allora, project manager per il Politecnico di un progetto europeo che adesso Arianna vi racconterà, perché c'è la possibilità, mi sembra già da giugno, di proporsi, vero? Fino a giugno. Ma sì, allora questo progetto europeo si chiama Creative Companies for Alpine Space. A Regione Lombardia, Digicultura come lead partner insieme al Politecnico di Milano e a Union Camere Lombardia, e coinvolge più di 9 partner in 6 paesi europei. C'è un'azione pilota che abbiamo chiamato Creative Camp, che si sta svolgendo un po' in tutti gli stati, e in questo momento siamo coinvolti proprio noi in Lombardia. È partita con una call for ideas a maggio, che ha visto la partecipazione di più di 100 creativi in tutta la Lombardia, in realtà anche stranieri che abitano in Lombardia. Abbiamo fatto una selezione di queste idee, ne abbiamo selezionate una trentina che hanno già partecipato ad una Creative Night insieme a istituzioni, imprese, enti che in qualche modo si sono già un po' innamorati di queste idee. La prossima settimana saremo coinvolti in un workshop intensivo nell'ambito del quale proprio questi creativi avranno la possibilità di sviluppare queste idee, di far diventare dei progetti concreti. Abbiamo un appuntamento al 20 di giugno, appunto, durante il quale ci sarà questo pitch, quindi questa presentazione di questi progetti, speriamo a investitori, fondazioni bancarie, venture capitalist, quindi a tutti quei possibili partner che possono essere interessati anche a finanziarli. Che poi è la cosa più importante per dare vita alle idee. Esatto. Noi stiamo un po' provando a mettere a punto un contenitore nell'ambito del quale i creativi possono partire dalle loro idee, provare a svilupparle anche con un minimo di concretezza e provare a costruire il network con tutti i possibili interlocutori che possono essere in grado poi di farli diventare dei progetti concreti, quindi di prodotti, di servizi, che noi speriamo entro luglio dell'anno prossimo, che è un po' la fine del progetto europeo, dimostrare come cose concrete che si sono fatte in Regione Lombardia, ma in realtà in tutti gli stati che stanno aderendo a questo progetto. Ecco, bene, Arianna, ti ringrazio. Io voglio ricordare il sito per avere tutte le informazioni, che è www.ccalps.eu. Non so se esatto. Ce n'è un altro, quello più facile è questo. Sì, quello per la Lombardia è itsstart.it. Mentre quello che hai detto prima è quello legato a tutti i partner europei. Ecco, poi andate appunto a cercare quello legato alla Lombardia, visto che ci appartiene in modo particolare. Grazie, esatto. Arianna Vignati, grazie, buona domenica. Grazie a voi, ciao. Il riposo del guerriero. Il principe azzurro di Medusa, un incantatore di serpenti. No, sto leggendo sempre le frasi che avete associato, le parole che avete messo insieme per creare delle frasi, e mi fa anche sorridere un po' il fatto che avete cercato di costruire frasi creative legate alle parole che il professore riteneva più difficili, e così, forse come sfida personale, avete scelto quelle. Quindi la maggioranza di voi ha scelto neve e pappagallo, che erano quelle apparentemente più distanti. Invece siete stati, devo dire, molto bravi. Smeraldo e matita è quella che è stata un po' meno usata, e principe e medusa. Queste le tre coppie di parola continuano a esserci frasi, racconti sulla vostra creatività. C'è veramente moltissimo da leggere, e lo farò poi con calma anche dopo il programma e non soltanto adesso. Marco Vanelli, intanto buona domenica, Marco. Buona domenica a voi. Allora, critico cinematografico e direttore anche di una rivista che si chiama Cabiria. E allora, parliamo di un linguaggio, perché tu sei uno dei tre autori di un volume titolato Animazione in 100 film. Perché, esatto, insieme a Marco Bellano e Giovanni Ricci. Quando si pensa all'animazione, tutti immediatamente, e qui il processo creativo devo dire è molto limitato, pensano subito ai bambini, ai cartoni animati e a quel mondo. Ma invece l'animazione può raccontare tutto, anche di più di quello che potrebbe fare un film normale, che l'animazione può permettere qualunque cosa, e anche con costi diversi e inferiori spesso, e invece l'animazione può essere, anzi spesso è destinata a un pubblico adulto, con temi anche molto impegnati. Esatto, il nostro libro è all'interno di una collana dell'editore Le Mani dedicata ai vari generi cinematografici in 100 film. L'animazione non è un genere, è una tipologia cinematografica, perché non si limita a raccontare solo determinate storie o solo per un certo tipo di pubblico. Nella mentalità comune rimane l'idea che l'animazione sia destinata ai bambini, anche se è vero che per lo più quello è il tipo di pubblico a cui ci si rivolge, però la lezione di Disney, il primo nome che ci viene in mente, ci fa capire che pur rivolgendosi ai bambini usava però un linguaggio complesso, un linguaggio articolato, personaggi molto sfaccettati, in modo tale che anche l'adulto che accompagnava il bambino al cinema a vedere Biancaneve o Cenerentola si divertisse, perché capiva o percepiva il sottotesto che spesso risiede in questi film. Ma al di là di questi, che sono i classici, esiste poi tutto un settore di animazione appunto riservato agli adulti o comunque riservato a un pubblico indiscriminato, ecco, senza un target preciso. Sì, in questo senso. Anche perdonami, anche con temi particolarmente impegnati, cioè, certo. Ho visto dei bellissimi film sulla guerra, per esempio, per cui insomma temi che... Con Bashir, esatto, cioè, il mio riferimento era proprio quello. Persepolis, tra i più recenti, no? Che segnano un passaggio dal graphic novel all'animazione e comunque anche la realtà narrativa del graphic novel o della graphic novel che è veramente in espansione ci permette di affrontare qualunque tipo di argomento, di narrazione, anche di indagine, usando un linguaggio diverso che è quello del fumetto, che è quello della grafica, oltre al testo scritto, dell'integrazione tra i due. Il cinema ne è un'ulteriore evoluzione, un passo avanti. Ecco, Marco, gli italiani come si comportano da questo punto di vista? Noi, non so, conosciamo Bozzetto come nome molto famoso, ce ne sono tantissimi altri però. Sì, certo, il cinema d'animazione in Italia ha sempre subito come dire, la presenza un po' schiacciante del prodotto americano e la produzione italiana, per quanto esistente sin dai primissimi anni del muto, si ricorda che proprio Giovanni Pastrone, tu prima hai detto che la rivista che dirigo si chiama Cabiria, no? Sì. Pastrone è stato il regista di Cabiria, però realizzò un film dove al periodo del muto, che si chiama La guerra e il sogno di Momi, dove c'è una sequenza d'animazione, quindi siamo negli anni 10, già esiste questo tentativo. E poi ci sono due grandi tentativi a colori negli anni 40, nel 49 escono in Italia sia La rosa di Baghdad di Antongino Domenichini, sia I fratelli dinamiti di Nino Pagot, e sono due lungometraggi a colori. Fu uno sforzo produttivo enorme per entrambi, tra l'altro appunto si fecero concorrenza perché uscirono entrambi nel 49, pur essendo stati realizzati negli anni precedenti, perché non ci volle parecchio tempo. Ecco, volevo ricordare Pagot e poi l'inventore di Calimero, per capirci. Esatto. Ecco, e quello è stato un ambito dove gli animatori italiani hanno potuto esprimersi con più libertà, cioè Carosello, la pubblicità, non solo Carosello per la televisione, ma ricordiamo che è esistito in Italia tutta una produzione di cortometraggi pubblicitari per il cinema, che quindi erano a colori e facevano sia animazione con i pupazzi o le figure animate, sia quello che più tradizionalmente chiamiamo cartone animato. Ecco, quindi... Poi c'è Bruno Bozzetto, evidentemente, negli anni più recenti. Sì, perché è quello un pochino più vicino da questo punto di vista. E allora, l'animazione devo dire che io l'amo particolarmente, ma è una forma artistica da non sottovalutare, lo dico appunto perché a volte, cioè spesso, troppo spesso, si collega a cose che non sono solo quelle, ma sono molto molto di più e apre un mondo. Quindi vi invito a vedere e magari prendere anche Animazione in 100 film, edito da Alemanni Editore, questo volume. Curato da tre autori, di cui Marco Vanelli è uno di loro. Grazie Marco, buona domenica. Anche a voi, a tutti. Grazie, e a questo punto è il momento di usare la creatività invece della nostra lingua, e lo facciamo con Francesca Dragotto. Senti chi parla. La nostra glottologa Francesca Dragotto. Ciao Francesca, buona domenica. Buona domenica, buongiorno a tutti. Allora, oggi dobbiamo essere creativi con la nostra lingua, perché la lingua stessa è creativa, ce la inventiamo ogni giorno più o meno, no? Beh sì, la lingua è creatività, il binomio creatività-lingua è un binomio che dà innumerevoli frutti, innumerevoli piste interpretative, però sicuramente tra tutte la più suggestiva è quella che hai citato tu, quella per cui creatività coincide con lingua. Ecco, facciamo qualche esempio, perché anche le parole che utilizziamo oggi nascono da esigenze, da una sorta di creatività da parte di chi ci ha preceduti, che aveva bisogno di dare nome a delle cose. Beh sì, ogni lingua è uno strumento per mezzo del quale ricreiamo il mondo e questa ricreazione segue delle vie che in parte sono comuni a tutti, in parte peculiari di ciascuna o di ciascuna lingua o di ciascun gruppo di lingue, mi spiego. Tutti siamo dotati delle stesse terminazioni, quindi tutti vediamo le stesse cose, tutti ascoltiamo gli stessi suoni, tutti annusiamo gli stessi odori e l'elenco potrebbe continuare, però poi il risultato è che la nostra esperienza mentale di questo vissuto è diverso e siccome la lingua è un'esperienza mentale perché passa attraverso la mente e il cervello, il risultato è che non tutto quello che riceviamo attraverso i nostri sensi trova spazio in tutte le lingue. Perché? E ora tu farei degli esempi a cui io mi accoderò. Perché? Beh, perché ciascuno di noi vive in un contesto che è prima di tutto un habitat naturale, vive in un contesto che è anche un habitat di tipo sociale, ha una storia e la lingua è una mescolanza di tutti questi fattori, che in più si va a innestare su qualcosa che abbiamo ereditato dalle generazioni precedenti, proprio come dicevi. Ecco, ci sono quindi lingue che pur, cioè, come dicevi tu, tutti abbiamo le stesse esperienze, però sono lingue che hanno più vocaboli, per esempio, che quindi dividono queste esperienze in più sfumature diverse, e altre invece che non hanno bisogno, non sentono la necessità di dividere quelle cose in tante sfumature, per cui basta una parola per elencarle tutte. Sì, beh, un classico di battaglia è il discorso sui colori o il discorso delle parole per la neve. È chiaro che qualcuno che vive al polo ha maggior necessità di distinguere gradi di consistenze diverse della neve, perché insomma avere a che fare con la neve ghiacciata può essere pericoloso molto più per qualcuno che vive in un contesto mediterraneo, quindi questo spiegherebbe la ragione per cui alcune lingue abbondano di termini riferiti a una certa esperienza, altre invece ne sono prive. Qualche anno fa uscì sui giornali la notizia di una nevicata storica in Arabia e del conseguente imbarazzo dei giornalisti nel non avere a disposizione una parola indigena per la neve. Allora questo non significa che chi parla una lingua in cui manchi la parola per neve non possa parlare della neve, perché alla bisogna si può coniare, quindi ecco la lingua come creatività che trova forma nel neologismo o nella perifrasi, la cosa che scende dal cielo, la cosa bianca, la cosa fredda, insomma non ci fermiamo mai, però la creatività prende vie differenti, tutte però hanno alla base il nostro rapporto con l'habitat nel doppio senso che intendevo e con noi stessi, con la nostra storia, con il modo in cui siamo fatti. Ecco, addirittura mi spiegava Francesca che i latini distinguevano il bianco con due tonalità diverse, quindi il bianco aveva due nomi diversi e il nero anche, vero? Sì. Esattamente, per chi ci ha preceduto era importante distinguere il colore opaco da quello non opaco e quindi in latino noi ritroviamo una parola per nero lucido, una per nero opaco e analogamente una per bianco lucido e una per bianco opaco. Nel passaggio alle lingue romanze, in particolare all'italiano, questa sfumatura si è persa. Perché? Perché evidentemente non è stato più dirimente, rilevante distinguere tra esperienze diverse di una stessa tonalità cromatica, quindi appunto non tutto quello che esiste viene ritenuto pertinente da noi parlanti che esercitiamo il nostro essere creatori decidendo di dare forma linguistica e quindi produrre parole per alcune cose ma non per tutte. Ecco, quindi possiamo dire che leggere e parlare è il nostro esercizio quotidiano di creatività. Sì, e quindi lo facciamo. Possiamo essere totalmente d'accordo e possiamo anzi invitare tutti a confrontarsi con la tavolozza dei propri colori, perché più parole si conoscono e più si hanno tonalità diverse per descrivere il mondo circostante. Grazie Francesca Dragotto, ciao. Grazie a voi, a presto. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Quando si parla di creatività non si può non parlare di giochi, neppure di videogiochi, perché tutto questo nasce proprio dalla creatività dei creatori. Il nostro ludologo infatti ci racconterà, credo, che noi italiani siamo stati anche bravi a inventare, lo siamo tuttora, o no? Sì, diciamo che ci sono molti autori italiani, famosi anche all'estero, anzi alcuni che pubblicano per case editrici estere e anche case editrici italiane che fanno giochi nuovi che poi vengono esportati e tradotti in altre lingue. Tanto è vero che tra i due estremi, diciamo, per semplificare il discorso dello stile di sviluppo giochi, che sono detti lo stile alla tedesca e lo stile americano, spesso in mezzo viene collocato lo stile italiano, che è uno stile tutto particolare che pesca sia dall'uno che dall'altro. Per fare nomi, diciamo, anche perché siamo in prossimità del dell'elezione dello Spiel des Jahres, che è il gioco migliore dell'anno in Germania, diciamo due titoli e due di due autori italiani che sono secondo me in concorso e potrebbero avere possibilità di una nomination. Sono Augustus, che è un gioco fatto dall'italiano Paolo Mori e pubblicato dalla casa editrice svizzera, la Hurricane, e Solkin, il calendario Maya, che è un gioco fatto dall'italiano Simone e Daniele e pubblicato dalla casa editrice cecoslovacca che si chiama la CGE. Questi per fare due titoli. Poi invece, se vogliamo parlare ad esempio di una casa editrice italiana con uno stile molto marcato recente, possiamo parlare della milanese Cranio Creations, che sono diciamo un gruppo di tre ragazzi di Milano che hanno fondato una casa editrice che produce dei giochi ideati da loro e che stanno avendo grandissimo successo all'estero, tra cui Horse Fever e Dungeon Fighter, che sono i titoli più famosi. Ecco, poi in una prossima puntata magari entreremo anche nel dettaglio dei giochi, racconteremo un po' la meccanica. Intanto mi fa piacere che ci siano degli italiani in un panorama così vasto come quello dei giochi che insomma possono avere la possibilità magari di portarsi a casa anche un premio. Grazie Andrea Ligabue, vi ricordo il sito ludologo.com come sempre, ci sentiamo domenica prossima. Ok, ciao Stefano e buona domenica a tutti. È il momento di Emilio Cozzi, giornalista invece esperto di videogiochi, il Sole 24 Ore, vice direttore di Zero. Ciao Emilio. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Come siamo messi in creatività noi italiani per quanto riguarda i videogiochi? Ma ti dirò bene, anche perché credo che in questo momento la creatività migliore nel settore videoludico sia ai margini dell'industria, e purtroppo l'Italia è ancora ai margini, ma sta uscendo con delle cose estremamente interessanti. Te ne faccio un elenco piuttosto rapido. Mi piacerebbe parlare anzitutto di Tiny Colossus, cioè Ciro Continisi, un ragazzo che ha da solo praticamente finanziato attraverso Kickstarter il proprio UFO 2. È la prima volta che un italiano riesce a finanziarsi attraverso questo sistema un gioco. Ahimè, il buon Ciro è leggermente in ritardo, ma una versione alfa su desura del suo gioco è già giocabile, è un puzzle game estremamente interessante. E poi menzionerei Stefano Gualeni, un ricercatore che vive in Olanda, ahimè uno dei nostri cervelli in fuga, che con il suo gioco Gualeni, guarda caso, Odirendo Parade, in realtà è il primo ad avere in qualche modo ideato un gioco la cui curva di apprendimento addirittura è basata su rilevazioni biometriche, cioè sul battito cardiaco, sulla dilatazione della pupilla, una cosa estremamente interessante che ha anche dei risvolti, se vuoi, fuori anche dal settore, molto molto stimolanti. E poi comincerei a parlare di qualcuno che comincia a farsi notare anche all'estero. Penso a Santa Ragione, Paolo Taillé, che con un gioco Mirror Moon sono addirittura arrivati in finale nella categoria Nuovo World della GDC 2013, come dire la Cannes degli sviluppatori, una cosa estremamente estremamente prestigiosa. Per arrivare poi a Molle Industria, che è uno dei miei preferiti, Paolo Pedercini, un ragazzo che sviluppa giochi da ormai 10 anni, sì, e per cui lo sviluppo del gioco è un modo per fare critica sociale. I suoi giochi sono piuttosto noti, sono gratuiti, sono violentissimi. L'anno scorso ha vinto l'Indiecade, che è come il Sundance cinematografico, con un gioco che parlava di droni, quindi un tema di scottante attualità, si direbbe oggi. E finisco con Ovo Sonico, in realtà, che è una realtà, come dire, di cervelli ex in fuga che sono tornati in Italia, quindi molto interessante. Stanno a Varese e stanno addirittura sviluppando delle proprietà intellettuali per conto di Sony, con delle cifre di entusiasmanti, speriamo che anche i giochi che arriveranno lo siano. Vorrei chiudere e salutare anche te Stefano con una cosa molto interessante dedicata proprio alla creatività. Il 21 giugno presso il centro televisivo dell'Università degli Studi di Milano i corsi di game design della statale e del Politecnico per il terzo anno consecutivo organizzeranno il New Game Design, vale a dire una manifestazione attraverso la quale gli studenti presentano i propri prototipi all'industria, al settore e agli esperti. È un'iniziativa strepitosa organizzata dai professori, sono Laura Di Pamonti, Dario Maggiorini e Pierluca Lanzi, che sinceramente consiglio proprio a chi sia interessato alla nuova creatività italiana. Anche perché c'è un'idea, poi verrà portata avanti, per cui insomma fatevi sotto, perché sono tanti i ragazzi che programmano e fanno anche delle cose molto molto carine. Grazie Emilio Cozzi, buona domenica, ci sentiamo buona presto. Buona domenica a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Le suggestioni del gastronauta. Ciao Davide, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti. Cosa hai scoperto per noi questa settimana? Pronto? Eccoci. Dicevo, cosa hai scoperto per noi questa settimana? Ma questa settimana, innanzitutto, cominciamo da un produttore di birra artigianale che è stato un po', diciamo, il pioniere di tutta la birra artigianale italiana che si chiama Teo Mussola, io e Baladena, addirittura ho scritto un libro, è uscito un libro, La birra artigianale, tutta colpa di Teo, ma non solo per la birra che ormai è diventata famosissima, ma anche per il ristorante che lui ha aperto al suo paese, Piozzo. Ebbene, c'è tutta una piazza che io ormai chiamerei Baladen oppure Teo Musso Square, perché da un lato c'è un bar, diciamo, dove si mangiano cose abbastanza veloci, e dall'altro c'è un vero e proprio ristorante dove si beve solo esclusivamente birra. Quindi credo che ormai, diciamo, questo paese sia diventato ormai tutta una birreria e un Baladen, e anche perché appunto Open Baladen ha aperto a Milano in via Solferino, dove si mangia e si beve birra. Ma l'ultima trovata di Teo è questa cola che è questa bibita fatta appunto con questa noce di cola, sì. Che ricorda un marchio famosissimo, e quindi potremmo dire è una cola italiana, quindi devo dire che veramente la fantasia di Teo ormai diciamo spazia a 360 gradi, quindi è tutta una scoperta, ogni giorno è tutta una suggestione il suo mondo. La seconda suggestione riguarda un ristorante a Milano, un ristorante d'albergo che è bulgaro. Beh, qualcuno dirà, ecco, c'è un ristorante diciamo lussuoso, caro. Non bene, è ma detto, io non vi voglio parlare di questo, perché la sorpresa è che la cucina di Andrea Ferrero, questo giovane chef, è molto, molto singolare, molto sua, cioè non è caviale, non c'è caviale, non c'è salmone, insomma non ci sono tutte queste materie prime che di solito fanno da corollario ai grandi luoghi e ai luoghi lussuosi. A cominciare che diciamo che il giardino, quando è del tempo, ultimamente è stato poche volte di questo albergo veramente uno spettacolo, mangiare o prendere l'aperitivo. E io vi voglio segnalare due piatti, anzi tre, che ho assaggiato, veramente molto interessanti. Un risotto con i gamberi crudi e il cedro. Bene, questo contrasto secondo me fa di questo risotto veramente un risotto molto intrigante e molto, come posso dire, da scoprire questo contrasto, veramente molto interessante. E un altro piatto è un maialino cotto a perfezione, chiama crosticina, e molte volte non si trova, qui si trova la crosticina. Poi un assaggio anche di una pasta con la bottarga, anche questa molto semplice ma molto efficace, e poi un'insalata di meringa, un dolce diciamo molto ma molto particolare e devo dire anche originale. Passiamo al terzo suggerimento, è una pasta. È una pasta di grano duro, è una pasta addirittura calabrese, ecco, io non avevo mai mangiato di un pastificio calabrese, non ne avevo neppure così conoscenza. Mi è capitato di assaggiare i pennoni di questa pasta forte è il nome dell'azienda, di Rende, che mi hanno così incuriosito e sono andato oltre le loro azioni, appunto, e ho continuato a assaggiare i scialatelli e anche i rigatoni, però è infinita, io ho assaggiato questi tre, diciamo, tre formati, ma poi ho scoperto che ci sono le pappardelle, ci sono i ricciarelli, insomma veramente una collezione di pasta molto interessante, perché è fatta con grano duro, un'essiccazione molto lenta, a bassa temperatura, e ne viene fuori una pasta che si sente veramente in bocca quando si mangia, pastosa. Quindi diciamo che segnalo Baladen, Open Baladen o Teo Musso, che dir si voglia, la cola, il ristorante del Bulgari con Andrea Ferrero come chef. Ferrero è un nome significativo, e ovviamente questo giovane cuoco proviene da Alba, non potrebbe essere diversamente. Certo. E la forte, appunto, di Rende, in provincia di Cosenza. Grazie Davide Paolini, sentiamo nel Gastronauta sabato e poi con altre suggestioni domenica. Ciao, a presto. Manè in 24 minuti. Per voi biglietti per la mostra di Venezia a Palazzo Ducale, ammesso che riusciate ad associare, e io vi aiuterò a farlo, le canzoni che vi propongo a qualcosa che ha a che fare con Manet, in questo caso col titolo di un'opera, fra l'altro molto famosa, dell'artista francese. Il numero verde per prenotarvi 800 24 0024 ed ecco la canzone. Freddie Mercury certo riusciva a tenere perfettamente la vicinanza di Montserrat Caballé, grandissima soprano, il suo desiderio era quello di cantare un disco con lei, ci è riuscito in quest'album che devo dire è molto bello tutto, anche con suoni veramente particolari, vi consiglio di andarlo a recuperare e di ascoltarvelo, ma intanto questa appunto è Barcellona, molto famosa. Anna Maria da Piacenza, ciao, buona domenica. Ciao a te, buona domenica. Allora Anna Maria, questa canzone la conoscevi, immagino di sì, no? No. Anche perché è stata sfruttata per un evento mondiale importante. Anche un altro. Allora ho sbagliato, perché io ho fatto allora, ho collegato. L'Expo, insomma, sì. Sono saltata fuori con l'Olimpia come quadro. Sì, a quanto pare è giusto, è proprio il quadro è quello, E vai. Il collegamento era con le Olimpiadi di Barcellona, da qui Olimpia. Io ho fatto l'Expo, il quadro preparato per l'esposizione universale di Parigi, dei quadri che era l'Olimpia, e da lì. Ma ci sei arrivata. Sì, il percorso è stato un po' diverso, ma ci sei arrivata lo stesso, tranquillamente, brava, hai usato la creatività, hai usato la puntata di oggi per arrivare alla risposta giusta. Per te i biglietti per l'ingresso a Manet Ritorno a Venezia, complimenti Anna Maria, buona domenica. Anche ciao. A voi, bellissima radio, bellissima trasmissione. Grazie ancora. Ragazzi. Ciao, Aldo da Milano, buongiorno Aldo. Buongiorno, anch'io avevo pensato Olimpia, arrivato tardi. Però guarda che il prossimo è facile, anche il prossimo. Ascolta questa canzone che conosci sicuro, eccola qua. We're after the same rainbows out, waiting round the bend, my huckleberry friend, Aldo, insomma, la canzone, sai che canzone è? Moon River, sì. È Moon River, una canzone molto famosa, scritta da Henry Mancini per la colonna sonora di un film. E io adesso ho scelto questa versione, quella di Danny Williams, perché mi piaceva in modo particolare. In realtà nel film questa canzone è interpretata da un'altra persona. Hai presente da chi? No. È una donna che suona la chitarra appoggiata alla finestra, una scena molto famosa, Lei è una bellissima attrice, bella, famosissima. Ma ti ricordi che colonna sonora di che film era questo? No. Adesso ahimè no. Ma come fai a non ricordare? Lei con la chitarra suona, accompagnata la chitarra da se stessa, suona questa canzone, la canta, appoggiata al davanzale di una finestra, e c'è quello che abita al piano sopra di lei che la sente cantare e si affaccia ad ascoltarla. È una scena molto famosa, con un'attrice davvero molto famosa. Non ti posso dire di più, perché è talmente conosciuto questo film e lei. Tra l'altro credo che sia il film così più famoso interpretato da lei. Che se no ti dico tutto e ti dico il titolo dell'opera, hai capito? Ecco perché non posso aiutarti più di tanto, Aldo. Vediamo un attimo. Moon River, una donna che canta, bella, bellissima. E Aldo, vediamo... Aldo, facciamo una cosa, che sì? ti devo salutare. Aspetta, hai 10 secondi, vai. Sì, colazione da Tiffany. E il quadro si chiama? Tiffany, Mi dispiace, hai preso l'unica parola. Colazione sull'erba, no? Degenè sull'erba. No, era già, non è quello. Mi dispiace, ciao, ti devo salutare. Grazie, okay. Aldo, però ci sei arrivato. Già, insomma, una parte è vera. La risposta settimana prossima. Grazie a Giorgio De Luca, redazione. L'assistenza di Benedetta. L'assistenza di Benedetta Acri, ho sbagliato la parola. Grazie, Peter Bescapè in regia. A voi, ci sentiamo domenica prossima. Buona settimana, come sempre, da Stefano Gallarini.